avec des yeux d'opale qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Normalmente è regola che di un'epoca che abbia un suo contorno epico ci se ne accorge soltanto a posteriori. Nessuno di noi ha avuto mai la percezione di aver vissuto nulla di favoloso negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, in tutti i decenni che oggi vengono celebrati come decenni nei quali c'era una particolare essenza e qualità e particolarità e singolarità di vita, per cui possono essere definiti i favolosi anni 60, i favolosi anni 70, tanto che la moda del ritorno, del revival, li ricelebra continuamente. I miti nati, cresciuti e coltivati in quegli anni sono miti che hanno l'impressione di essere lambiti dal senso dell'imperituro. Beh, noi stiamo vivendo, e in questi giorni Radio 24 lo sta analizzando e sintetizzando in maniera mirabile, un momento molto particolare. Ci rendiamo conto dell'epicità del momento che stiamo vivendo? È un momento epico, ricorderemo a posteriori, perlomeno altri ricorderanno di questi anni, come gli anni della crisi del 29, di cui ancora si parla, su cui sono stati fatti film, costruiti romanzi, immaginate sceneggiature. Ci sarà qualcuno che dirà, all'ambire del 2012 il mondo occidentale civilizzato fu attraversato da un profondo momento di crisi. Cadde in contemporanea con l'avverarsi, o perlomeno con l'ansia dell'avverarsi, di un'antichissima profezia maya, per cui il 21 dicembre dell'anno 2012 sarebbe finito il mondo. Ma quindi in quel momento particolare, tra il 2011 e il 2012, tutto l'Occidente civilizzato fu attraversato da un momento terrificante, di spaventosa crisi. Beh, come lo sto raccontando, sembra quasi che sia nel racconto di un personaggio che a distanza di secoli parla di un'epoca attraversata da un momento che comunque, sia esso piacevole, spiacevole, drammatico, fantastico, non interessa tanto a coloro che verranno dopo, ai nostri posteri. Interessa il fatto che a quest'epoca sia applicata la condizione di essere qualcosa da ricordare. E quali sono gli strumenti, i meccanismi e il ricordo più efficaci? Beh, sono la narrativa fantastica, sono la favola, sono il romanzo, che poi, a seconda del oggetto tecnologico impiegato nei tempi, possono essere un racconto orale, un testo scritto, una rappresentazione teatrale, un film, un DVD, un file intangibile ma allo stesso tempo facilmente trasmissibile, che resta e galleggia la memoria. Beh, come racconteremo questa epoca? Intanto cominciamo a capire come il senso della crisi, il senso della disperazione, il senso della paura legata alla propria condizione economica sia stata affrontata nel passato. Per farlo questa mattina ho un ospite che è sicuramente caro al nostro pubblico, che di solito chiamiamo sempre sul liminare dell'epoca natalizia. Perché? Perché è una persona fortemente espressa in narrativa, in fantastico, e il fantastico molto spesso è associato al Natale. Ma in questo Natale in particolare esiste questa contraddizione di associare il fantastico al senso della disperazione, al senso della paura per il futuro, perché questo è, di questo si sta parlando. Poi i miei colleghi più esperti della materia lo confezionano in termini economici, in numeri, io lo confeziono in termini epici, in termini legati alla sensazione, in termini legati al nostro immaginario. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori, e sono molto contenta di essere a Radio 24. Ecco, noi abbiamo passato assieme, mi sembra, 2 o 3 Natali già, mai pensavamo di dover passare un Natale affrontando questo problema, ma lo facciamo. Ricordo che Silvana De Mari, nostra amica, è una notissima saggista, scrittrice di genere fantasy, forse una delle scrittrici di fantasy italiani maggiormente tradotta all'estero, o forse la più tradotta, dopo lo dirà lei se è così. L'ultimo romanzo è Io mi chiamo Yorsh, che è il prequel dell'ultimo Elfo, che è un ciclo di romanzi fantasy di cui abbiamo altre volte parlato, editore Fanucci. Silvana, come l'umanità ha raccontato momenti assimilabili a questo attraverso la favola, il racconto, la fantasia? Li ha cominciati a raccontare, noi stiamo per festeggiare Natale. Se non sbaglio è la nascita di un bambino che è addirittura nato in una stalla. Quindi cominciamo anche a guardare quello che ha preceduto tutto. Noi apparteniamo alla civiltà occidentale, civiltà che fonda la spiritualità biblico-evangelica, la filosofia greca, il pragmatismo romano e la violenza e la potenza dei barbari. Quindi cominciamo dalla spiritualità biblico-evangelica, la povertà, la miseria, la crisi e il deserto. Noi cresciamo solo sulle crisi, e nelle crisi che noi cerchiamo competenze che altrimenti non abbiamo. Quindi sia la religione ebraica che quella cristiana spesso passano attraverso i deserti, e abbiamo questi 2 grandissimi deserti. C'è un deserto dove è chiamato Abramo, certo, ma soprattutto il deserto, sono i 40 giorni di deserto di Mosè e i 40 anni di deserto di Mosè e i 40 giorni di deserto di Gesù Cristo. Il deserto è la povertà, il deserto è la miseria, il deserto è il luogo dove finalmente noi capiamo il valore dell'acqua, perché fino a quando noi non attraversiamo il deserto, noi non capiamo il valore dell'acqua. Il deserto è il luogo dove impariamo a fare miracoli, perché fino a quando abbiamo tutto ci abbiamo a disposizione, noi non impariamo mai. Noi siamo nati da una crisi molto grave, un gruppo di scimmiette, probabilmente c'era stata una malattia virale, e quindi c'è stato questo gruppo di scimmiette che sono nate senza coda. E le loro mamme le hanno guardate disperate, dice oddio, e avrebbero voluto con tutto il cuore che anche il loro bimbo fosse uguale a tutti gli altri, avesse la coda. È una cosa grave per la scimmia non avere la coda. Hai un altro in meno, gli altri si procurano più banane, sono più forti. E allora queste scimmiette nate senza coda hanno avuto solo 2 scelte: o morire, o mettersi sulle 2 zampe posteriori e dire io sono perché penso. Noi cresciamo solo sulla crisi. La nostra crisi è la grande occasione. Cosa è successo nel deserto? Perché 40 anni, 40 giorni? Perché questo numero che ritorna? Certo, 40 anni perché gli uomini che erano stati schiavi non potevano entrare nel mondo dei liberi, ma potevano essere 39 anni o 41. Nell'ebraismo ogni lettera ha anche significato di un numero, oltre che un significato di ideogramma. Per esempio la Bava è una stanghetta verticale, può essere la luce della creazione che investe il mondo. 40 è la Mem. La Mem è la lettera con cui comincia Ma'in, cioè acqua. 40 anni nel deserto, ma con la compassione dell'acqua. Con la compassione di Miriam, anche di nuovo che troviamo questa M, la sorella di Mosè, che fa sgorgare l'acqua e che è quella che attraversa il Mar Rosso, cantando e danzando. Quindi il deserto è il luogo dove noi impariamo a fare miracoli. E io adesso ti fermo un attimo, perché se no sei un continuo riferimento, invece dobbiamo avere il dono della sintesi e centrare subito. È molto chiaro, hai capito che partendo dalla narrazione della narrazione, che è la storia sacra, perlomeno la storia sacra che compete a noi esseri occidentali, il senso della crisi è il profondo humus da cui nasce ogni rinnovamento, ogni civiltà. Questa non vuole essere una trasmissione consolatoria, non vogliamo indorare assolutamente le pillole, vogliamo riflettere anche sui sensi profondi di quelli che prima di noi hanno raccontato la crisi. 800 24 00 24, qual è per voi il racconto della crisi che maggiormente vi ha colpito, maggiormente vi ha dato il senso comunque di quello che sta raccontando Silvana De Mari? Io ce l'ho e vi dico qual è il mio. La carità, se sei così ricco, perché non regali qualcosa pure a noi? Sì, sì, regala. Il rincresci, ma non posso. Illustratissimo Mangiafuoco me l'ha dato per il mio babbo. Arrivederci e buona fortuna. Un momento, aspetta. Fermo. Aspetta. Ti ha dato cosa? Cosa? Non ve lo dico. E io non ci credo. Io i ricchi li conosco da lontano un miglio. E poi sarebbe stato l'illustrissimo signor Mangiafuoco a fargli questo regalo. Ma chi lo racconta? Dove li tieni? Ve li faccio vedere. Come? Ma non qui, perché... I famosi zecchini che mangia fuoco, detta Pinocchio, sono state una delle angosce della mia esistenza. Cercavo di riprodurli nei miei giochi fanciulleschi con le monetine ramate da 20 lire, che erano quelle che più potevano somigliare, lucidandone bene con il sidolo, a uno zecchino d'oro. Quante volte ho seppellito le monetine, come tanti altri ragazzini ancora ingenui e non dotati di strumenti informatici di amplificazione della loro esperienza, hanno fatto. Quante volte ho pensato, immaginato e sperato che fosse possibile che dallo zecchino nascesse l'albero degli zecchini. Quanto mi ha colpito, angosciato e quanto per me è stato significativo l'improvviso entrare della ricchezza nella vita di un povero bambino disgraziato, il cui padre si vendeva la giubba morendo dal freddo per comprargli l'abbecedario, finalmente a questa ricchezza, e subito il gatto e la volpe glieli vogliono fregare. E per fregarglieli gli propongono una forma di investimento, secondo loro vantaggiosissima per lui. Quanto ricorda l'attualità, quanto ricorda la realtà, quanto ricorda tanti interessanti discorsi fatti da esperti in questi giorni anche a questa radio. Il gatto e la volpe, dico, dagli a noi gli zecchini, sappiamo noi che uso farne, sarà per te la cosa migliore. E gli rifanno seppellire, un atto che apparentemente del tutto sconsiderato, è privo di ogni logica, ma per un bambino può essere comprensibile il fatto che l'alberello che cresce e è pieno di zecchini possa essere la maniera migliore per investirli. Infatti lui finirà malissimo a seguito di questa operazione. Silvana, spiegami questa mia fanciullesca rimembranza dell'incubo degli zecchini seppelliti. È l'incubo di diventare poveri, che è un incubo assoluto. La povertà è qualcosa di sconvolgente. Nei film dell'orrore, fateci caso, il bambino si trova in case porche e povere perché quella è una situazione tragica, una situazione dove lui potrebbe anche perdere la vita, dove noi potremmo perdere la vita. Noi adesso l'abbiamo dimenticato, ma in realtà la miseria è sempre stata la prima forma di morte. Tutto sommato possiamo considerarla una morte violenta. Allora, prima di cominciare a disperarci, ricordiamoci solo una cosa, che ognuno di noi, oggi, in piena crisi, completamente disperato per la crisi, ha una qualità di vita superiore a quella del sole. Perché non dobbiamo sopportare i pidocchi, non dobbiamo sopportare le piattole, sì, le aveva anche lui. Abbiamo il riscaldamento nelle stanze di Versailles d'inverno, fuori c'erano meno 30, la seconda piccola glaciazione, c'erano dei paggi per scuotere l'acqua e il vino che non si formasse la patina di ghiaccio. Abbiamo gabinetti soprattutto. Esatto, abbiamo i gabinetti, al motivo per cui non abbiamo le pulci, e se i nostri figli o noi stessi ci ammaliamo di appendicite, ci operano in due giorni la paroscopia e ci dimettono, mentre lui ha dovuto vedere suo figlio morire di peritonite acuta. Quindi noi siamo già ricchissimi, viviamo già in un mondo dove non c'è più la peste, non c'è più il vaiolo e c'è l'acqua corrente, quindi cominciamo a partire dal presupposto che siamo già ricchissimi, dobbiamo semplicemente aumentare. Ricordiamo a un'altra metafora di tipo religioso, già che ci siamo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. C'era una crisi, se tutti si fossero portati il panino da casa avrebbero fatto un bellissimo picnic, invece mancavano, c'erano solo pochi pani e pochi pesci e quindi abbiamo dovuto moltiplicarli. Lì ci dice la nostra capacità di moltiplicare la ricchezza, la nostra capacità di moltiplicare la ricchezza, che ce ne sia per me e per un altro. Se io sto disperatamente cercando lavoro, aspetto che un altro mi dia lavoro, e invece no, devo crearlo io per me stesso e per un altro. Anche una lezione, Silvana, nei confronti del gatto e della volpe, le persone che ci danno ottimi consigli. E poi non dimenticare quello che per me è la pagina più funesta di Pinocchio, e so che tu non sei d'accordo, è l'ultima pagina di Pinocchio. Pinocchio, ricco, antipatico, bambinello, paffuto, la prima cosa che fa, mette mano nella sua tasca e c'è il borsellino con dentro degli zecchini fiammanti. E non ha guadagnato lui, in effetti. Posso essere... È un piccolo strozzino, già è pronto per il suo futuro, si vede benissimo. Magari non possiamo dirlo, magari l'investirà e creerà lavoro per sé e per gli altri. Geppetto è già un pensionato, già lì tranquillo con la sua bella giacca da camera e le pantofole di velluto. È un piccolo strozzino pronto a vivere di speculazione, questo è chiaro. Ma c'è un'altra vicenda che a me molto assatanò e molto colpì nella fanciullezza. Mi sembrava impossibile che i genitori potessero fare questo. C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano 7 figli, tutti maschi. Il maggiore aveva 12 anni, il più piccolo 6 e si chiamava Pollicino. Pollicino! E voi tutti, figlioli, preparatevi! Andiamo nel bosco a fare legna. Dovete sapere che la sera prima il boscaiolo e sua moglie avevano deciso in gran segreto di abbandonare i figli nel bosco perché non sapevano più come sfamarli. Pollicino però, nascosto sotto una panca, aveva sentito i loro progetti. Il mattino dopo, l'intera famiglia di Pollicino era già nel profondo del bosco. E quando scese la notte... Com'è tardi! Il babbo e la mamma non verranno più! Si hanno perduti! Mamma! Papà! Papà! Aiuto! Venite con me, fratelli! Vedrete che riuscirò a riportarvi a casa! Man mano che la famiglia... Già immagino il commento di molti ascoltatori che diranno: ma come, Nicoletti, viene a prenderci in giro, a farci sentire le favole che conosciamo benissimo di quando eravamo bambini, oggi vogliamo risposte certe. Ma Silvana De Mari, quale dramma si celava dietro al bisogno e necessità di raccontare a dei bambini attraverso generazioni questa drammatica storia di padre e madre costretti ad abbandonare dei figli nel bosco perché non possono mantenerli? Vorrei che i telespettatori apprezzassero il silenzio. Io in questo momento vi sto parlando della classe della seconda A della Scuola Agnelli di Torino. In questa scuola è stato fatto un lavoro su Pollicino. È stato fatto un lavoro dove un ragazzo di 11 anni, dovendo rappresentare graficamente come se dovesse fare una sceneggiatura, ha rappresentato la casa del padre e il bosco dove c'è l'orco, che comunicano mediante una scala a chiocciola, perché la violenza comincia nella scala del padre, nella casa del padre. Questa violenza terribile di vendere il proprio bambino, i bambini di 4 anni erano venduti alle miniere. Nelle fiabe abbiamo la Peronzolo, una bambina venduta da mamma, la Bella e la Bestia, una bambina venduta da papà, una bestia. Chi accompagna la bambina di 7 anni al postribolo in Thailandia o in Brasile? Il padre. Ma i nostri nonni ci raccontano di come il padre affittasse, che non è un termine più cortese di vendere, il proprio bambino alla fattoria di fianco, che aveva bisogno di due braccia in più, dove lo facevano dormire nella stalla, gli facevano condividere gli avanzi col maiale. Quindi la miseria assoluta, dove il bambino viene travolto, il bambino viene venduto, ci ricorda il cannibalismo che esisteva normalmente nella preistoria. Gli indiani d'America, attualmente in fase di beatificazione, molte civiltà africane erano ancora al cannibalismo, rappresentato dal mito terribile di Crono, cannibalismo che ritorna nella guerra dei 30 anni in Germania, prima di mangiare, di morire di fame ci mangiano i cadaveri, che compare in Ucraina del 1932, che compare ovunque. Comunque ci sia la fame, cannibalismo che tuttora esiste. Sono circa 10.000 i bambini cinesi che scompaiono per essere trasformati in organi da trapiantare, anche quella è una forma di cannibalismo. Quindi teniamo presente che in altre epoche siamo arrivati a mangiare i morti. Quella che stiamo passando è l'ennesima crisi economica, la supereremo come abbiamo superato tutte le altre, la supereremo nella sola maniera con cui si superano le crisi, diventando più forti. Perché noi cresciamo solo sulle crisi, e sulle crisi che impariamo a moltiplicare i tonni. Allora, fermiamoci soltanto un istante, Silvana, dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa, riprenderemo dopo la borsa con le suggestioni che già stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, con quello che io ricordo riguardo a questa storia terrificante, che nel momento di crisi si può anche arrivare a mangiarsi i propri figli. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Oh misericordia, 7 bambini! Scappate in fretta! Questa è la casa dell'orco! Se vi vede, vi mangio in un boccone! Venite dentro ad asciugarvi! Apri, moglie, mi voglio asciugare! È un montone intero a mangiare! Presto, scappiamo! Io sono l'orco della favola, ho una pancia spaventosa. Mi piacciono i bambini tondi e piccolini, mi piacciono fatti al forno, patate di contorno, mi piacciono pure... Certo, non si può fare una colpa all'orco che sia orco. L'orchitudine prevede il divorare bambini, l'orco non fa nulla di male. Forse qualcosa di male fa Pollicino, quando scambia le figlie dell'orco, le fa sgozzare, una cosa terribile nel lettino. Ma anche lui da salvare se stesso in un mondo così crudele, così disperato, attraversato da una crisi così profonda, in cui i genitori sono costretti a abbandonare i figli nella foresta perché non possono mantenerli. Volete fare la colpa a un povero Pollicino che fa sgozzare le figlie dell'orco? Luca, buongiorno. Buongiorno. No, io pensavo, mi sono sempre messo nei panni dell'orchessa che dà aiuto ai bambini, li soccorre, gli dà da mangiare, li scalda e poi come ringraziamento si trova morti tutti i suoi figli, no? Che poveraccio, è la persona più triste di tutta la fiaba. Sì, anche la più buona forse di tutta la fiaba, perché è l'unica che soccorre veramente gli altri, no? Era mamma a 360 gradi, sia delle orchestre terrificanti che dei bambini abbandonati. In fondo tiene un po' come la moglie di un alcolista, cerca di compensare quello che sa che è la debolezza del proprio marito facendo lei qualcosa. Quindi lei se la ricorda, l'attribuzione di questa favola a un momento particolare di crisi lo trova esatto, giusto? Sì. Sì, forse lo spirito di sopravvivenza estremo che porta, le situazioni di pericolo o comunque di paura portano, si tende a proteggere se stessi senza pensare poi alle conseguenze e agli altri, si diventa più egoisti forse. Grazie, sentiamo Paola Napolitani. Paola Napolitani è un'amica, si occupa di pubblicità, però ci sta ascoltando in bicicletta, mi ha mandato un messaggio su Facebook e non posso fare a meno di chiamarla. Cos'è che ti ha distolto dalla tua pedalata questa mattina? Ma guarda, ho trovato che il fatto che diventi tutta una favola, e vi ringrazio perché io la sento la crisi, nel senso che faccio parte di quelli a cui è saltato la pensione, eccetera, eccetera. E stamattina ho pensato, ma è vero che è nelle favole, e quindi diventa una favola e quindi può avere un lieto fine, ecco, tutto qui. Ma te come esperta del racconto della merce, tu in realtà confezioni favole attorno dei prodotti, questo è il tuo lavoro, capito? Ti rendi conto che in questo momento è una grande responsabilità, dovrai inventarti nuove narrazioni per raccontare un periodo in cui il tripudio dell'acquisto è abbastanza limitato. Beh, non è sempre il tripudio, diciamo di fare in modo che i prodotti diventino delle piccole soluzioni a piccolissimi problemi, in quel senso funzionano. Tu hai i piatti sporchi, con questo prodotto i piatti diventano puliti. Allora la piccola crisi in quel modo lì la puoi risolvere. Quindi c'è un adattamento nella narrazione della pubblicità a questo momento, necessariamente? Io credo che ci sarà per forza, necessariamente. Intanto c'è un adattamento perché ci sono pochissimi spot nuovi in onda, si tende a risparmiare. Come ricicli i cappotti, ricicli gli spot. Beh, ho visto riapparire roba degli anni 60-70, sì, sotto la pretestuosità del vintage, che è qualcosa di figo, però la creatività ha un pochino difetta in questo punto. Hai ragione, si vanno a ripescare le vecchie idee e poi i vecchi film, non vecchissimi, ma diciamo che le edizioni degli anni scorsi riadattate. Cambi il prodotto, l'immagine finale del prodotto se è stata modificata, ma ti tieni la vecchia storia. Sono poche le nuove storie. Grazie Paola, buona pedalata. Niente, grazie, buona pedalata per Milano. Silvana De Mari, ricordo, saggista, scrittrice fantasy, autrice del suo ultimo romanzo, Mi chiamo Yosh, che è il prequel del ciclo dell'ultimo elfo, Fanucci Editore. Hai sentito Silvana, la pubblicitaria che deve raccontare comunque anche lei, inventarsi favole, ci ammette che in questo momento si ripescano le vecchie favole perché non se ne riesce a inventare e immaginare nuove. E quello che diceva l'ascoltatore riguardo la mamma delle orchestre di Pollicino, in questa narrazione, in questa favola Specchio della crisi, che ruolo ha? Quella di farci ricordare di una cosa, che noi abbiamo un'etica completamente diversa da quella dei fratelli Grimm. Noi spesso giudichiamo i nostri antenati con standard attuali, senza ricordare, senza renderci conto, questo è stato il gravissimo errore del 68, che noi, è vero, noi siamo migliori dei nostri antenati, noi non tollereremo più che questa povera orchestra, che è tutto sommato una persona per bene, si trovi con le sue bimbe uccise. Noi avremmo immaginato un'altra fine, per esempio l'orchestra, le ragazzine e i ragazzini tutti insieme che uccidono l'orco, o meglio ancora che spiegano l'orco che in un bosco pieno di cervi si può fare qualcosa di più intelligente, e poi ci facciamo i cervi al mirtillo, per carità, scansiamo gli animalisti. Allora, dunque, torniamo a noi. La signora ha detto una cosa giustissima, le fiabe ci ricordano il lieto fine, ma che alla fine della fiera, se guardiamo la storia dell'umanità, alla fine va a finire bene. Le fiabe ci dicono la verità, che alla fine ci sarà un lieto fine, perché noi abbiamo capacità straordinarie, ognuno di noi ha potenzialità straordinarie, ma fino a quando non siamo con le spalle al muro non le tiriamo fuori perché è troppo comodo. Gli anni 60 furono degli anni di scontento terribili, avevamo tutto, eravamo usciti dalla seconda guerra mondiale senza mutande e grazie al coraggio dei nostri padri, i nonni dei giovani attuali e ai quattrini del piano Marshall, avevamo ricostruito un paese dove bene o male per la prima volta in tutta la nostra storia non si soffriva la fame, eppure lo scontento era continuo, il quantitativo di suicidi che avvenivano negli stati modello di Svezia e Norvegia erano atroci. Noi abbiamo bisogno di attraversare il deserto perché altrimenti perdiamo il senso del valore delle cose, è nel deserto che si capisce il valore dell'acqua e anche il valore della compassione. Noi apparteniamo a un'epoca straordinaria, c'è la crisi economica, chi se ne frega, non la prima e l'ultima, noi siamo esseri umani, abbiamo superato la peste, abbiamo superato il vaiolo, volete che non superiamo sta roba qua? Sentiamo Roberta. Roberta, buongiorno. Buongiorno. Senta, io non so se è pertinente il mio libro della crisi, ma per me è Madame Bovary. Beh, anche lei aveva una crisi e cercava compensazione, sì, anche quella sì. È una crisi, certo. Sì, io e questo ha colpito molto il suo immaginario. Sì, quando ero adolescente infatti io non riuscii a finire di leggerlo perché probabilmente ero in crisi. La tentazione era troppa di seguire le tracce della povera Emma. Sì, infatti, probabilmente come lei insoddisfatta in quel momento, non so, Emma era insoddisfatta, piena di smanie, vampirizzava ed era vampirizzata da se stessa a mio avviso. Vabbè, era semplicemente, non si accontentava, su questo hanno scritto fiumi di libri, di esegesi e di interpretazioni, non posso modestamente dire che era semplicemente una signora che sentiva inadeguato il mondo che le stava intorno. La velleità molte volte nasconde anche una creatività, poverina, erano le sue scelte, ma magari poco felici. E lei quale scelta bovariana ha fatto nella sua vita? No, guardi, quello che mi... la cosa che più a me, metteva in crisi era il fatto di stare accanto a una persona di cui non si aveva né stima né, trasporto. La mia scelta è stata quella di mandare tutta all'aria e ricominciare da capo. Vabbè, magari il bovarismo è stata anche una corrente di pensiero che ha ispirato artisti. Se uno trova tediosa, noiosa, ossessionante, ma soprattutto noiosa, che è la cosa peggiore, la realtà che lo circonda va a cercare altrove. Lei si era talmente appallata di suo marito che ha pensato a un certo punto quel fagotto di calzini puzzolenti di buttarlo via e scegliere qualcos'altro, ma mi sembra una scelta positiva, no? Sì, infatti posso adesso provare a rileggere il libro perché non è più un motivo di crisi. Spero dopo concreta pratica di bovarismo comunque. Certo. Già, giustamente. Chiara, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare semplicemente una domanda a Silvana Mari volevo sapere se lei ritiene, se lei crede, invece, diciamola semplice, insomma, se lei crede nel darwinismo, ecco, perché ho sentito che diceva che noi miglioriamo e lo abbiamo sempre fatto nelle crisi. Ma mi sembra che ormai sia abbastanza, ci crede anche il Papa da questo punto di vista. Comunque, mica tanto. E lei cosa pensa? Siamo circondata da creazionisti, anche nascosti. E ognuno si sceglie i suoi amici, mica detto che... certo. E i creazionisti cosa le dicono? Ma io guardi, io in realtà non sono né l'uno né l'altro. A me piace che ognuno esprima il suo parere, per me il creazionista può dire quello che vuole, può pensare che a un certo punto scende un angelo dal cielo e mette una piantina, lì nasce l'uomo, può pensare quello che vuole, può pensare che noi eravamo... Mi piaceva sapere cosa ne pensava la dottoressa De Mari. Sì, io adesso glielo domando, sì. Ma non è che ciò che esprime la De Mari in realtà risolve il dilemma dell'umanità. No, è bello che ognuno pensi ciò che vuole. Silvana De Mari. La signora è stata colta probabilmente e si è sentita subito in colpa perché qualcuno sopra di lei gli dirà che questo è peccato, pensare che in qualche maniera abbiamo parentele con esseri abietti come le scimmie. Allora, due cose. In primo luogo, geniale Madame Bovary, perché quello è proprio il punto. Madame Bovary distrugge la sua vita perché lei è sempre scontenta. Lei tiene l'attenzione concentrata sempre su quello che non ha e mai su quello che ha. Ognuno di noi è ricchissimo, ognuno di noi solo per il solo fatto di essere vivo. Io ho una serie di ricchezze infinite, sono straricche, a cominciare da un padre che sarebbe morto per me. Lui non mi avrebbe abbandonato in un bosco in mano all'orco. A cominciare dalla cagnolina che stamattina mi ha fatto le coccole. Quindi ognuno di noi è ricchissimo, abbiamo gli occhi, abbiamo le mani e respiriamo. Non c'è nessuna differenza tra creazionismo e darwinismo. La Genesi ci racconta in maniera assolutamente metaforica quello che Darwin ci ha raccontato in maniera un filino più specifica. Non so se sapete la barzelletta di Abramo, chiunque altro che vada a Dio, e dire scusi santità, ma per lei che cos'è 10 millenni? E l'altro risponde un secondo. E che cos'è l'universo? E l'altro risponde un granello di sabbia. E che cos'è un centesimo di euro? E l'altro risponde 20, cosa sono 20 milioni di euro? E l'altro risponde un centesimo di euro. Allora dice, scusi santità, mi darebbe un centesimo? Allora dice, certo figliolo, è andato un secondo. Allora dal punto di vista di Dio un'era geologica è un secondo, più o meno ci siamo. Peraltro, come diceva un mio amico Labino, non c'è nessuna prova certa che il mondo non sia stato creato 5700, non mi ricordo il numero giusto, Gesù che figura, anni fa, con tutto il suo passato, cioè l'ha creato insieme al cranio del tirannosauro Rex, perché noi ci divertiamo a studiarlo. Quindi si è creato il cranio del tirannosauro Rex, noi divertiamoci a studiarlo e decidiamo che c'è stata una preistoria. Ma attenzione, io non è possibile dal punto di vista biochimico che la vita si sia formata da sola. Non è pensabile che una struttura complessa come una cellula possa essersi formato da sé. Scusi, siamo d'accordo, sai qual è il problema secondo me? È come chiamare questa cosa che è accaduta, è una questione di riferimenti. Io sono... sorrido di fronte ad ogni forma di estremismo, anche lo scientismo, il razionalismo, anche il laicismo quando diventa una religione mi fa ridere. Non mi pongo il problema, è più grande di me, non riesco a pormi il problema, sinceramente. Questo è il mio punto di vista. Melog 2.0. Se storie di mare su cadenze di mare, avventure e tempeste, vivo sangue e immoto gelo, vele piene di vento e isole lontane, e sepolti tesori e pirati, vecchie storie rievocate col loro sapore antico, possono ancora piacere come a me piacquero un tempo, a voi, giovani d'oggi, che sapete la strada giusta. Così sia, e incominciamo. .0024 0024. Silvana De Mari, quale morto ci sta dentro la cassa? L'isola del tesoro ha senso di raccontare anche lì un momento in cui la ricerca del tesoro potrebbe essere l'alternativa. Quanti oggi cercano il tesoro? Quanti accumulano i tesori? Quando vanno in giro a comprare dobloni d'oro, monete d'oro, lingotti d'oro e sperano che rinchiudendosi il loro fardellino di oro stanno a riparo e in sicurezza da ogni tipo di crisi. Oggi compro oro, cerco oro sono uno degli esercizi più calcati per lo meno nelle strade delle nostre città. Silvana. Allora, la ricerca del tesoro è una la ricerca della fata madrina che con la bacchetta magica ci tocca e noi risolviamo il problema, ed è una delle tragedie dell'epoca attuale, perché c'è in questo momento una atroce diffusione del gioco d'azzardo che sta distruggendo le persone. E approfitto di Melog per dire che è un crimine che il gioco d'azzardo, che è una compulsione, venga pubblicizzato per televisione. Chiusa questa parentesi, da un punto di vista metaforico. No, te lo dico perché ho fatto, devo dirtelo, sennò sembra ipocrita. Ho fatto l'altro giorno una trasmissione che esaltava il diritto di parlare gioco d'azzardo. Lo dico, se non si vuole rovinare, si rovini. Il gioco d'azzardo legalizzato, perlomeno, dà l'idea di tenere sotto osservazione i casi compulsivi. Sono d'accordo che sia legalizzato, non che si faccia pubblicità. Perché una compulsione è una persona che abbia una compulsione non senza riuscire a contenersi. A parte questo. Ma allora non bisognerebbe più far vedere una persona piacevole in giro e coprirle tutte, perché sai, qualunque cosa suscita compulsione. La Clerici non potrebbe fare manicaretti la mattina, non ci sarebbe nessuno, una bottiglia di vino dovrebbe essere coperta con un chador. Qualunque cosa da gioia e appassiona crea compulsione. Comunque, andiamo avanti, okay, ne facciamo un'altra trasmissione. Il tesoro dell'isola del tesoro è il tesoro che ognuno di noi può trovare dentro di noi. Adesso vorrei dire che i grandi maestri di quello che con un italiano di plastica è definito pensiero positivo, mi scuso per un termine così ripilante, ma così chiariamo, era tutta gente che nella top 10 della sfiga sgomitava per i primi 10 posti, cioè era tutta gente che di che cos'è una crisi, un'idea ce l'aveva. Viktor Frankl eleva la sua teoria, all'interno della mia testa ci sono solo io, nessuno mi può impedire di pensare a qualcosa che amo, mentre al fondo nel campo di sterminio di Auschwitz, la sua teoria che basta che io pensi a qualcosa di bello e nessuno può inchiodarmi, perché la mia realtà è quello che ho all'interno della mia testa e nella mia testa ci sono solo io. Erickson, che ci parla del potere infinito dell'immaginazione, era inchiodato da una sedia a rotelle, da una terribile poliomielite. Per quanto infinita sia la notte che mi circonda da tutti i lati, io sono e resto l'unico capitano della mia anima. Noi cresciamo solo sulle crisi. Questa bellissima poesia è stata scritta da un uomo a cui era stata sottratta una ricchezza che la maggioranza di noi in questo momento ha, le gambe. Era stato amputato delle gambe per un morbo di Pott quando aveva 14 anni. Se noi non avessimo le gambe, quanto denaro saremmo disposti a dare per di averne? Beh, ce le abbiamo, allora abbiamo le gambe. E lui comunque è riuscito a vivere una vita forte, felice. Noi cresciamo solo sulle crisi. Penso che hanno i tempi. Oggi Oscar Pistorius si è fatto delle gambe di carbonato e policarbonato, di una fibra di carbonio favolosa, e corre più veloce di ogni altro uomo, è diventato un superuomo, esatto, senza gambe. Scusate, ma ci va un po' di coraggio. Certo, non Andrea, sentiamo Andrea. Non piangersi addosso dicendo come vorrei le gambe. E lui se le fatte tecnologiche e corre più forte di noi e più veloce di noi. Andrea. Salve, buongiorno Nicoletti, buongiorno Ademari. Io avevo chiamato per dire che il libro della mia crisi è stato il Candide di Voltaire. È un libro di grande crisi, perché avevo 16 anni e pensavo di vivere nel migliore dei mondi possibili. E alla fine del libro invece sono uscito più forte dalla crisi che il libro mi aveva fatto vivere, perché ho compreso che tutti noi dobbiamo zappare il nostro orto nella vita, e che pensare che il mondo sia bello senza zappare il proprio orto, ma solo parlando come fa il filosofo, non è una gran vita, ecco, volevo dire solo questo. Silvana, ognuno di noi dovrebbe trovare il suo pangloss, ma non è sempre così possibile. D'accordo, ognuno di noi deve coltivare e far fiorire il proprio orto, cioè quello che ho attorno a me e quello che ho vicino a me. Comincio a migliorare tutto quello che posso di tenere in realtà che è vicino a me. Se ognuno di noi fa fiorire il suo orto, alla fine il mondo sarà una distesa di fiori. Non devo andare io a risolvere i problemi che sono a migliaia di chilometri da me, lì ci sono altri uomini, lo risolveranno loro. Io devo far fiorire il mio orto. È geniale. Esiste un proverbio della saggezza umbra, non so se c'entra molto, ma mi sta sulla lingua, devo dirlo, che dice sto coi frati e zappo l'orto, che dice che esattamente significa il contrario, mi adeguo, non faccio nessuna fatica per capire, faccio quello che mi dicono i frati. Lello, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo un attimino riportare le cose più alla realtà, nel senso a dei paragoni con il nostro passato. Questa non è una realtà, mi scusi. No, per carità, ma io citavo proprio degli episodi della nostra vita, nel senso io sono praticamente suo coetaneo, quindi sono cinquantenne, anche se suona strano dirlo, perché la nostra generazione, il cinquantenne della nostra generazione è sicuramente molto diverso dal cinquantenne della generazione dei nostri genitori. Io ricordo la crisi Io mi ricordo, quando avevo 20 anni pensavo un cinquantenne con una persona che ormai già devono mettergli la formalina nelle vene perché si mantenesse. Esatto, guardi, la stessa cosa, mi sento benissimo, grazie a Dio, come sta benissimo lei, come tantissimi cinquantenni, siamo sani, siamo molto combattivi, pieni di energie rispetto ai nostri genitori che a 50 anni si consideravano già arrivati, insomma già una vita alle spalle. Noi diciamo che a 50 anni quasi ci sentiamo all'inizio, no, di una nuova vita. Certo. Però purtroppo ci capita questa crisi che noi, peraltro, ecco, io volevo ricordarle, nessuno l'ha ricordato, c'è stata una piccola crisi nella nostra vita, nel 75, se lei si ricorda l'austerity. Sì, ma sembrava un gioco allora, noi l'abbiamo vissuta da ragazzi, non vedevamo l'ora di andare la domenica sui pattini a rotelle, ci sembrava una stupidaggine. Bravissimo, io volevo fare proprio questa riflessione con lei, no, e con le sue ospiti. Niente, noi eravamo, allora i nostri genitori, è vero che noi siamo certamente degli cinquantenni molto più in forma, tra virgolette, ma i nostri genitori erano molto più solidi. Le nostre famiglie erano anche molto più solide. Ah beh, è chiaro, questo è chiaro. Cioè, voglio dire, noi ci sentivamo spalleggiati nella crisi, cioè i nostri genitori ce la mettevano giù come un gioco. Ma in effetti la crisi c'era. Io ricordo quelle fantastiche domeniche senza automobili, non mi sembrava. Eravamo padroni del mondo, eravamo. I cinema chiusi, la televisione spenta, il buio, era bellissimo. Certo, non vorrei con questo dire che questo è un momento del tutto indifferente. Però abbiamo dimostrato questa mattina con Silvana De Mari che esiste anche una forma diversa per affrontare problemi del genere. La narrazione, la fantasia, l'epica, il racconto e la favola ce l'hanno sempre trasmessi a posteriori. Cominciamo a raccontare, a prepararci a raccontare a chi verrà dopo di noi come avremmo passato questa crisi. Grazie a Fabrizio Intonti e a Valerio Rocchetti. Ci sentiamo domani. Unicredit, sempre vicino alle imprese. Vi ha presentato Melog 2.0. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.